Va ora in onda Rock Revolution. About destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? You say you got a real solution. Plan. You asked me for a contribution. Well, you know, we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be? In diretta dagli studi radiofonici di CRM Happy Radio, va ora in onda Rock Revolution. Presenta Filippo Brancato. Buonasera, buonasera, ben trovati nuovamente su CRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede, per trascorrere assieme questa nuova puntata di Rock Revolution, il programma rock del venerdì sera di CRM. Ormai lo sapete, andiamo a scoprire quelle che sono le nuove realtà emergenti musicali, nuove band della Sicilia, ma non solo. Sapete benissimo che ogni settimana ci mettiamo in collegamento con altre bellissime città d'Italia e conosciamo nuove realtà musicali, questo per ampliare le nostre conoscenze musicali oltre la manica, ah no, oltre lo stretto. Benvenuto subito a Simone Brancato. Simone, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Saluto anche la nostra redazione, Ida Parlavecchio, anche lei pronta, siamo tutti pronti in realtà da un pezzo, stavamo aspettando soltanto voi per iniziare questa nuova puntata di Rock Revolution. Come anticipato, conosceremo una band molto interessante da Pordenone, bellissima città tra l'altro, loro sono gli Overrun It Machine, parleremo con questo loro progetto musicale recente del 2011, sì, da qualche mese trascorso, conosceremo quindi questo loro progetto musicale molto interessante. Poi parleremo con Francesco Quartararo da PalermoReport.it per conoscere quelli che sono gli eventi più interessanti di questa settimana. Ormai lo sapete, vi facciamo sempre sapere dove è più interessante trascorrere la serata, a Palermo ma anche nei dintorni, e weekend intero, quindi con Francesco parleremo di questo. Poi non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla musica in sequenza con il Rock for You, ovvero i quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. Anche questa settimana quattro grandissime canzoni rock and roll. Il Rock Revo Live, l'appuntamento dedicato ai due brani in versione live dal vivo. E poi non mancano le due sequenze, le vari brani che ascolteremo stasera. Stasera davvero un bel po' di novità e tanta musica classica di gran successo. Vi daremo subito dopo le coordinate per interagire con Rock Revolution. Ormai su internet sapete bene che siamo un po' dovunque, sparsi a macchia d'olio, come si suol dire. Quindi cercate Rock Revolution o CRMP Radio, troverete il modo di mettervi in collegamento con noi. Qualora non ci riusciate, non vi preoccupate perché ci sono io, va bene? Tranquillizzatevi, tranquilli. Vi do poi tutti i modi per interagire con noi. Iniziamo subito con la prima canzone, un nuovo pezzo degli Young the Giant, si intitola My Body. Spiral round this town of stone. nuovo singolo per Young the Giant su CRMP Radio, questo era My Body all'interno di Rock Revolution. Allora, come promesso, vi do subito le coordinate per interagire con noi. Allora, gli sms al 335 56 37 251 lo detarrazzo, però lo trovate anche sul nostro sito, chiaramente crmpradio.it, oppure sul sito del nostro programma rockrevolution.it. ne parleremo poi dopo nel nostro sito, perché per voi band che ci ascoltate ci sono anche delle cose molto interessanti. Non dimenticate ancora il nostro profilo Facebook CRMP Radio oppure Rock Revolution Redazione per chattare con noi in tempo reale o su internet i messaggi, insomma ormai lo sapete abbastanza bene. Arrivano gli Scorpions, No One Like You. CRM Happy Radio Rock Revolution, il programma rock di CRM. Grandi successi del passato e nuove proposte musicali presentati da Filippo Brancato. una delle ultime canzoni degli Oasis, questa era Fairway, nel senso che poi sapete i fratelli Gallagher si sono separati e ognuno di loro continua per la propria strada. Questa è una delle ultime canzoni degli Oasis assieme con i due fratellastri, no, fratellastri, non so se sono fratellastri onestamente. Boh. Nuova canzone in arrivo, parliamo di AC/DC e Metallica in questa sequenza di due brani. Gente, e io sono fiero di ognuno di voi, anche del più negato. Quindi cerchiamo solo di mettercela tutta, magari ci sbatteremo la faccia.

una scarica di adrenalina assieme a Metallica e gli AC/DC, l'ultima canzone dei Metallica, tratta il loro ultimo album, che è davvero molto particolare, a partire dalla copertina con multilivello che va a formare una bara, pensate un po', un po' tetra come cosa. E questa era Death Magnetic, per appunto l'ultimo album, per scelta decisamente molto più speed metal che metal semplicemente. Siamo in collegamento con Palermo per parlare con Francesco Quartararo da palermoreport.it per conoscere quelli che sono gli eventi più interessanti della settimana. Francesco, buonasera, bentornato a Rock Revolution. Ciao a tutti voi, buon rock. Buon rock anche a te, caro. Senti, allora, cosa ci racconti di bello questa settimana? E allora, questa è la settimana, come dicevo, del Coldplay, ma anche del Tour de France. C'è stata la prima serata giorno 30 e insomma ci sarà un'altra serata domani, poi mi avvierò al Damienchiano 2012, mm-hmm. A quanto pare la fantasia per fare i nomi delle rassegne rock si va esaurendo. Si tratta comunque di una festa fatta nei Silmeri, con ben 15 band che si alterneranno sul palco a partire dal pomeriggio di domani. Insomma, si fa la festa della Repubblica distruggendone una parte. Senti, e questa sera cosa è previsto, insomma, di interessante nel quel di Palermo? È la prima serata del Coldplay al Conca d'Oro. Come ti spiegavo la settimana scorsa, si tratta di manga, anime, ma anche fumetti, e sarà in contemporanea con un'altra manifestazione nazionale dove ci stanno i cantanti, le sigle dei cartoni animati, e insomma tanti costumi buffi. Senti, ho letto oggi che c'era una pubblicità su un quotidiano locale che è previsto un premio di 3.000 euro al miglior costume. Eh sì, come ti spiegavo la settimana scorsa, c'è anche una gara sia per la migliore esibizione dal vivo che per il miglior costume. Ecco, io sentivo oggi un po' di persone su Facebook che hanno lasciato dei commenti sul nostro profilo e raccontavano proprio questo, il fatto che ci sono alcuni costumi che costano anche 4.000-5.000 euro. Sì, come ti spiegavo, alcuni sono realizzati in cartapesta, ma hanno una preparazione direi quasi annua. Certo. Draghi, vascelli fatti in cartapesta, insomma ci sono dei lavori che sono fatti veramente bene. Senti, ma tu hai preparato già qualcosa? Pensi di partecipare? No, assolutamente no. Magari all'ultimo mi metto la paperina, ma hai visto mai. Io ti proporrei da Kiss, che è un po' di trucco in faccia, un paio di stelle rosse, tutto bianco, e un po' di roba borchiata addosso, secondo me. A quel punto magari un cattivo dei cartoni animati giapponesi si trova. E infatti, ci assomiglierà sicuramente. Anzi, la cosa più semplice di tutto, magari vestito a Lupin con un costume minimo. Infatti, roba, si trova una giacca salmone, ce l'hai, ora è rossa, mi ricordo. Forse è rossa. Al limite forse. Una sigaretta smorta del fregino, insomma. Gaemon già è un po' più complicato, secondo me, perché da trovare la katana affilata al punto forse giusto. Per chi ha i capelli lunghi è la cosa più semplice, no? A un certo punto ci mette un kimono, ecco, forse gli zoccoli di Gaemon sono più complicati. Infatti. Senti, quindi questa sera c'è questa manifestazione, poi a Palermo domani sera, che è sabato sera, abbiamo il Tour de Force, che è il main event, e poi Tour de Force al Giardino Inglese. Sì, e poi le altre due date saranno a Villa Tragia e a Villa Giulia, insomma ci si muove a tempo di Bionda. Infatti, tra l'altro so che Bionda chiamata ai palermitani, insomma, offre sempre buoni spunti. Tra l'altro questa settimana si concluderà anche il Rockers on Stage con ingresso gratuito, ci sarà la finale e seguiremo anche la fine del Satisfactor Tour. Bene, il tour è un altro. Sì, il Tour de Force, che invece è il Giardino Inglese, che ricordiamo sarà ingresso gratuito e ci sarà un'orchestra composta da diversi elementi, tutti quanti, diciamo un'orchestra all star, cioè ovvero tanti artisti presi da varie band del palermitano, ma non solo, che suoneranno dal pop al reggae, passando per il jazz, lo ska, insomma, e il pop rock. Voglia di festeggiare, di far arrivare l'estate quanto prima. Infatti, poi il Giardino Inglese è un bellissimo posto a Palermo, uno dei pochi posti verdi vivibili della città, e quindi ben vengano queste manifestazioni. Senti, come parliamo un po', facciamoci un po' i fatti nostri in radio, sfruttiamo questo mezzo di comunicazione. Com'è andata la settimana a Palermo? È arrivato il caldo? Comincia a farsi sentire la voglia di andare al mare? Sì, le spiagge ormai sono prese d'assalto, Mondello è quasi montata, a dirti la verità inizio a dubitare che ci siano più le cabine, nel senso che sono state riverniciate tante quelle volte che credo sia fatto ormai di vernice. Soltanto di vernice, il legno sì, non c'è più praticamente. I turisti sono entusiasti perché insomma non se l'aspettano a maggio di trovare una città così combinata. Certo. Certo, l'amministrazione si è rinnovata da poco, però insomma vediamo quali saranno le novità. Si sono già visti i primi frutti di questo cambio di amministrazione oppure ancora? Più vigili per le strade, quindi insomma il cambio c'è, ma purtroppo è doloroso. È doloroso, però insomma speriamo che questi soldi possano essere poi investiti in cartellonistica, in sicurezza stradale, che sappiamo che a Palermo un po'. Allora, i soldi delle multe dovrebbero essere reinvestiti nel rifacimento del manto stradale, però insomma questo è più argomento da Palermo Retro. assolutamente. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare appunto il sito palermoreport.it, dove potete trovare tutte le informazioni più interessanti, gli articoli tra i quali quelli di Francesco Quartararo, che sono sempre molto interessanti e attenti e precisi nella loro descrizione, nella loro scrittura. Sì, nella loro descrizione di quello che succede. Tra l'altro ci si avvicina al Palermo Pride, abbiamo il Queer Festival, che è appunto una rassegna cinematografica dedicata a tutta la tematica LGBT, insomma trovate anche l'intervista a Vladimir Luxuria ad eccezione. Ok, senti, ma la farai tu l'intervista oppure? No, già fatta. Ah, già fatta? Stamattina. Ah, che bello. Sì, la trovate proprio ora su Palermo Retro, tra l'altro è un personaggio mai banale, quindi è da sentire. Bene, allora palermoreport.it, gli articoli di Francesco Quartararo, ma non solo. Noi Francesco ti ringraziamo. Domanda conclusiva, ormai lo sai cosa fai stasera? Cosa farò stasera? Beh, ancora devo decidere. Come al solito, no? Le scelte sì, dell'ultimo minuto attiva. Sono le scelte mie, ma fra quali opzioni devi scegliere? Non ho più pallida idea, oggi roulette russa, chi arriva con una proposta decide. Bene, è bello anche così, no? Le scelte dell'ultimo momento sono quelle vincenti, si dice. Francesco, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, appuntamento la prossima settimana, sempre grazie per le tue interessantissime... Assolutamente, se passate da Miss Mary, festeggiate la Repubblica facendone saltare in aria un pezzo da suoni di rock e metal. Alla grande. Grazie Francesco, ciao, buona serata, buon weekend. Ciao. Francesco Quartararo, palermoreport.it, e ogni settimana ci mettiamo in collegamento per conoscere quelle che sono gli eventi, le attività più interessanti da fare nel weekend. Sapete, insomma, spesso la gente dice: che facciamo sto weekend? Noi siamo qui pronti a tenervi compagnia. Poi anche il sabato pomeriggio, durante la replica, potrete riascoltare per evitare di scrivere sull'agenda, che ormai siamo diventati tutti anche un po', come si dice a Milano, in Trentino, la gnusi, da questo punto di vista, no? Per fortuna c'è Rock Revolution, arriva David Bowie, un grande successo, Absolute Beginners. I've nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. Absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. Absolute beginners. With eyes completely open, nothing we can't shake. Oh, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Well, if my love is your love, we're certain to succeed. Radio Rock Revolution, l'appuntamento rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. Rock Revolution è anche su internet all'indirizzo www.rockrevolution.it. Like a sore head, and the night it is aching. Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day it is breaking. On rainy days we go swimming out, on rainy days swimming in the sand. On rainy days we'd go swimming out. In my mind, all the time, I know that's not enough. If the sky can crack, there must be some way back. For love and all we love. Someone else's dream. Coffee is cold, but it will get you through. Compromise, that's nothing new to you. Must be some way back to love and all we love. Electric crystal. wish away our bad luck. Must be some way back in love and only love. Electric star, electric star, electric star. Electrical Storm, questi sono gli U2 su CRMP Radio, questo è Rock Revolution. Devo assolutamente salutare alcuni ascoltatori amici. Allora, Mauro da Palermo che dice: prima di tutto pane e panelle in Piazza Indipendenza. Mauro, ottima idea, purtroppo non possiamo raggiungerti questa sera. E poi salutiamo anche Daniela che dice: un bel concerto all'aperto non ci sarebbe male. Effettivamente, insomma, con queste belle temperature, questi ultimi giorni sicuramente arriveranno, stai tranquilla, se non stasera prossimamente. Nuova canzone dell'Litfiba, si intitola Elettrica. Bimba elettrica, sempre in cerca di una scossa oltre la frontiera della pelle e delle ossa. Insaziabile creatura in estinzione di presente qui, col coraggio e l'intenzione salti su, cavalchi sull'abisso, un po' felino che c'è in te, ma le dimostrazioni ti vanno strette, le tue emozioni hanno uno strano effetto e truccati gli occhi, affronta le tue ombre, fatti più forte che il mondo ti confonde, dici di sì ai tuoi cavalli bianchi, ora tu stai scatenando una tempesta elettrica. Sempre in lotta per il mondo, non escluderei che sai già come mandarlo a fondo con le formule tipiche di un'arte antica. Tu come Salome baci la mia testa andata, dimostrazioni ti vanno strette, le tue visioni hanno uno strano effetto e truccati gli occhi, affronta le tue ombre, fatti più forte che il mondo ti confonde, dici di sì ai tuoi cavalli bianchi, ora tu stai scatenando una tempesta elettrica. I Litfiba, dopo l'ultima reunion, sono tornati d'attacco con il loro rock italiano, sempre di grande effetto. Dalle due ore. E non so se avete notato, insomma, da quando Piero Pelù è tornato a far parte dell'Elite Fiba, sapete, insomma, c'è stata questa diatriba fra Ghigo Renzulli e Piero Pelù per chi doveva, come dire, avere i diritti sul nome dell'Elite Fiba. Alla fine finì che li conservò Ghigo Renzulli, e quindi Piero Pelù continuò per la sua strada solista. Ha pubblicato anche diversi album, poi c'è stata, insomma, questa reunion che li vede nuovamente assieme. Alcuni cattivi sostengono per motivi di soldi, ma insomma, forse non sono tanto cattivi. Fatto sta, insomma, che Piero Pelù è tornato con questo suo nuovo look molto più cattivo e aggressivo, con nuovi tatuaggi sulle spalle, pizzetto da caprone tibetano sul mento, e Ghigo Renzulli rimane sempre uguale, baffetti, insomma, gli occhi sempre chiusi a saracinesca. Questi sono i Elite Fiba, sempre molto amabili, direi io, no? Nuove canzoni in arrivo, questa volta vi facciamo ascoltare una canzone che tra l'altro ha fatto parte di una colonna sonora del film Trainspotting, un film, insomma, di grida, un appello, insomma, per quello che è stato poi negli anni 80, negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, un momento molto incerto per gli irlandesi nei confronti degli inglesi, e questo è, insomma, un grido un po' di esasperazione, quella che era la realtà di quei tempi in quel d'Irlanda, al Dublino, sapete, insomma, sapete bene, no, cosa è successo. Questa canzone, quindi, colonna sonora film Trainspotting, in sequenza con è una coppia davvero un po' particolare questa sera, perché in realtà parliamo di Irlanda ed Inghilterra. Irlanda con gli Slippers e Inghilterra con il grande Elton John. We'll be right back. best rock music on air with Rock Revolution on CRM Happy Radio. Questi erano i due brani in sequenza, gli Slippers, e poi insomma abbiamo concluso con Elton John, questa canzone Crocodile Rock, che è stata richiesta la scorsa settimana da alcuni ascoltatori. Abbiamo pensato bene insomma di farli contenti, vabbè. Allora, questa sera ci mettiamo in collegamento con Pordenone e adesso scopriremo se effettivamente è proprio Pordenone City oppure zone limitrofe per conoscere gli Run It Machine. Siamo al telefono con Giorgio. Buonasera, benvenuto a Rock Revolution. Ciao, ciao a tutti. Allora, sul sito MySpace, sul vostro canale MySpace, ma che ricordiamo ai nostri ascoltatori, MySpace/Overrun It Machine, leggiamo che la band nasce nel 2000, ma il primo lavoro lo autoproducono nel 2005. Ci vuoi raccontare i passi evolutivi della vostra band, come siete nati, quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati inizialmente? Guarda, Overrun It Machine è un progetto mio personale che nasce appunto intorno al 2000. All'inizio i componenti non erano quelli attuali, Venivamo tutti quanti un po' da influenze diverse, da tipologie di musica diverse, differenti. Sì. Ci siamo messi insieme, abbiamo provato così a mettere insieme appunto le nostre esperienze per creare quello che è alla fin fine un crossover dallo spinto, un crossover che abbraccia tantissimi stili, sì, appunto stili che vengono dalle nostre diverse influenze, insomma. Certo, certo. Senti, all'inizio, sì. In quel periodo il crossover e soprattutto il new metal stavano nascendo, e quindi la scena era abbastanza così, era abbastanza libera, quindi inizialmente abbiamo avuto un buon riscontro. Mm-hmm. E non è stato facile andare avanti, perché poi così il new metal ha avuto un po' un declino, noi inizialmente eravamo un po' così associati al new metal, poi in realtà quello che noi facciamo è vero crossover, perché mescoliamo veramente tanti stili, da non so, dal metal più estremo fino a, non so, anche al canto gregoriano, per dire. Uh-huh. Il nostro primo lavoro, come hai detto tu, nasce nel 2005, è un disco autoprodotto completamente, e il risultato è stato notevole, abbiamo venduto anche parecchie copie per essere così il nostro primo prodotto. Uh-huh. E, all'inizio, a quell'epoca la line-up era completamente diversa, e, eravamo anche più giovani, eravamo forse anche più inesperti, infatti è il disco più grezzo, se vogliamo, ecco. Poi i dischi che sono venuti dopo ovviamente si sono evoluti, ecco. Senti, hai bruciato tutte le domande che dovevo farti, Gio. Ah, mi piace. No, sto scherzando. Senti, la vostra musica è molto energica e grintosa. Molti ragazzi del giorno d'oggi si avvicinano a questo genere musicale per come sottoforma, per trovare una forma di sfogo, no? di grido, di cercare di sfogare tutta la propria rabbia. Sì. È qualcosa che vi accomuna? Beh, sicuramente la nostra musica è una musica di protesta. Di protesta contro, non tanto contro il sistema, quanto contro la difficoltà di vivere che ormai ci accomuna, soprattutto negli ultimi anni. Mm-hmm. Noi non facciamo politica con la nostra musica, però la nostra musica abbraccia un po', tocca un po' tutti quelli che sono i temi più attuali, appunto la difficoltà di vivere, alcuni temi che su cui noi per esempio puntiamo molto. Io sono da sempre, io combatto da sempre la pedofilia ed è uno dei temi che tocchiamo spesso nei nostri brani. Poi che ne so, l'inquinamento, le guerre, i soprusi in generale, comunque i nostri brani parlano di un disagio interiore che ci accomuna, ecco. In una società come questa, dove tutto quanto gira intorno al soldo, al denaro e all'apparire, ecco, noi cerchiamo di dare un messaggio che vada contro tutto questo. I nostri testi sono anche molto molto negativi, senza dubbio, però lasciano sempre uno spiraglio di luce. Alla fin fine c'è sempre comunque una speranza. Beh, è una bella cosa questa, poter sperare perlomeno in questo, no? Cioè nel fatto, certo, che poi alla fine, con tutto il male, alla fine c'è qualcosa di positivo. Senti, io, certo, stavo guardando un po' il vostro MySpace e ho notato che c'è una collaborazione molto importante con il produttore di Bjork, U2, Elisa, Marlene Kunz, parliamo di Howie B. Secondo voi cosa deve fare una band d'oggi per farsi notare? E cosa ha influito, insomma, nella vostra musica questa importante collaborazione? Ma allora, il nostro è stato un incontro fortuito, assolutamente. È stato casuale e fortuito l'incontro appunto con Howie B. Sicuramente lui è interessato a noi, perché comunque quello che gli abbiamo sottoposto, la nostra musica, gli ha suscitato qualcosa, senza dubbio. È stata sua la proposta poi di collaborare. Mm-hmm. Noi non avevamo questa speranza, diciamo che così, che questo incontro casuale poi si è trasformato in una collaborazione, perché lui ha deciso di mettersi in gioco. Collaborare con una band metal per lui era sicuramente una scommessa, non l'aveva mai fatto prima, e quindi ha detto perché no, proviamo. E il risultato secondo noi è stato notevole, ecco. Assolutamente. Per quanto riguarda cosa deve fare una band per farsi notare, io credo che la cosa fondamentale sia ricercare il proprio stile e il proprio suono, renderlo il più originale possibile. È impossibile essere assolutamente totalmente originali, perché anche noi abbiamo le nostre influenze musicali. Certo. Però sicuramente il suono delle Mute Machine ormai si distingue, insomma lo si riconosce, ecco. Questo è importante secondo me per una band. Senti, arriva un messaggio da internet dei nostri ascoltatori e chiedono quanto sono importanti i tatuaggi per una band come la vostra. No, ti spiego anche il motivo, perché mentre noi stiamo parlando, nella nostra web TV scorrono le immagini dei vostri live, cioè quindi tu in fotografia, abbiamo visto scorrere anche un'immagine molto, molto bella, dove ci sei tu ripreso, insomma, con tutti questi tatuaggi degli avambracci. Quindi salutiamo Maria da Palermo, che dice come mai, quanto sono importanti. Effettivamente, insomma, un tatuaggio è un po' un modo di vivere, no? Rappresenta un po' un modo di vivere. Beh, i tatuaggi sono sicuramente dei messaggi anche molto espliciti, però vedi, nella mia band siamo solo in due tatuati, gli altri non sono tatuati, quindi non è in fondo necessario il tatuaggio. Fa parte della mia vita privata, non c'entra niente con la band, capito? Certo. Certo, l'immagine del tatuato fa sempre un certo effetto, ma non è strettamente necessario. Ci sono band di musicisti che non sono tatuati, che pure fanno gran musica, insomma. Certo. Non è il tatuaggio che fa la musica, ecco. Assolutamente d'accordo. Senti, su cosa siete impegnati attualmente? In che modo pensate di raggiungere la Sicilia quanto prima per farci ascoltare la vostra musica dal vivo? Allora, attualmente stiamo lavorando al disco nuovo che, se tutto va bene, vedrà la luce alla fine dell'anno. Uh-huh. Entro qualche giorno dovremmo andare a registrare il singolo che poi vedrà associato anche un video nuovo, fatto sempre dalla 4Frame, che è quel gruppo di ragazzi che ci hanno già fatto il video di Icarus. E il video nuovo, se tutto va bene, avrà anche un featuring molto importante che non sto a svelare, le trattative sono ancora concluse, però sarà una sorpresona, ecco. Bene, quindi noi terremo, appunto, sì. Andremo a registrare l'intero album. L'intero album verrà fatto con Eddie Cavazza e prodotto poi da Logan Mather, che è il fondatore dei Machine Head, mm-hmm. nonché il produttore di punta della Roadrunner americana. Famosa etichetta di Sugar. Queste sono due cose molto grosse per noi, ecco. Beh, senza dubbio, insomma, sono dei buoni presupposti per un futuro molto molto attivo da questo punto esatto. di vista, no? Senti, Gio, noi per quanto riguarda la Sicilia, se ecco, voi infatti. Ci invitate, se qualcuno ci invita, noi, insomma, si viene anche, eh. Allora, lanciamo un appello a tutti gli amici ascoltatori, gli organizzatori, insomma, visitate il MySpace degli Over Unit Machine per trovare, insomma, lì troveranno la vostra musica, i vostri contatti, penso, no? Certo, certo. Perfetto. Il MySpace, ti dirò, non è più molto attivo, perché ormai non viene più quasi utilizzato da nessuno. Piuttosto ci trovate su Facebook, ed è, ecco, un sito un po' più curato. E poi prossimamente ci sarà di nuovo online il nostro sito ufficiale, che è www.overuniedmachine.com, e lì ci saranno le foto del nuovo shooting, insomma ci sarà un sacco di materiale. Bene, bene. Senti, Gio, noi in questa sera ascolteremo Ungod. Ci vuoi parlare un po' di questa canzone? Ungod. Lo vuoi presentare? Ungod è un gran bel pezzo, tra l'altro è uno dei pezzi prodotti da UIB, dove lui ci ha messo anche parecchio del suo. Ecco, è un brano molto introspettivo, con un testo bello pesantone, con delle sonorità molto tuliane. Credo che chi apprezza i Tool possa apprezzare anche questo brano. Ecco, fra le influenze che abbiamo sicuramente spiccano i Tool. Poi però nella nostra musica ognuno ci sente influenze diverse, ci hanno associato a Machine Head, a Fear Factory, insomma chi più ne ha più ne metta, ecco. I Tool sono comunque molto presenti, ecco. Bene, lasceremo ai nostri ascoltatori la possibilità di esprimere il loro giudizio sul nostro progetto musicale molto interessante. Noi ti ringraziamo, ringraziamo tutti voi per essere stati a Rock Revolution. In bocca al lupo, speriamo di incontrarci presto in Sicilia. Speriamo. Io vi ringrazio per l'opportunità, saluto tutti gli ascoltatori e saluto voi sul portale di Rock Revolution. Ci salutano anche i ragazzi che suonano con me, il bassista, il batterista e un nostro fan. Ricambia. Niente, speriamo di vederci presto in Sicilia. Ecco. Assolutamente, ricambia, buon weekend. Buon weekend anche a voi. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Over Unit Machine da Pordenone su Rock Revolution, la musica emergente, la musica nuova, anche questo venerdì sera. Questo è Ungod. Visitate il loro sito internet, anzi sarà breve online, overunitmachine.com. Nel frattempo potete prendere maggiori informazioni sul loro profilo Facebook, Over Unit Machine.

Rock for You, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. For You, quattro successi rock in sequenza, senza interruzioni. I was when you took my hand, the light of the night was bright. Rock for You, quattro successi rock in sequenza senza interruzione. Inconfondibile rock and roll degli Status Quo a chiudere questo ennesimo Rock for You. I quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. Anche questa settimana abbiamo ascoltato le canzoni davvero molto significative, tra i Cranberries, Status Quo, Oasis e Queen, insomma. Adesso arriva un altro momento importante di Rock Revolution, ovvero l'appuntamento dedicato alla musica dal vivo con Rock Revo Live. Questa settimana due grandissimi interpreti, anzi sono tre di verità, perché sono gli Nirvana con la canzone che state ascoltando in sottofondo e poi gli U2 con i Corrs, una bellissima canzone. Rock Revo Live. Jesus don't want me for Sunday. Something's I'm not me like me. Don't expect me to cry for all the reasons you have to die. Don't ever ask your love of me. Don't expect me to cry. Now, where do you go when you're lonely? Due bellissime canzoni in sequenza. Abbiamo ascoltato i Nirvana con Jesus Don't Want Me For Something, una canzone registrata in occasione di un unplugged per MTV, e ancora in sottofondo Liu Zhu con I Course, bellissima voce la cantante con questa fantastica canzone che chiude il Rock Revo Live di questa settimana. Ultima canzone di questa puntata di Rock Revolution, una novità, grande canzone che sta avendo un grandissimo successo su CRMP Radio, inserita all'interno della Spirit Top. Loro sono i Black Keys. Abbiamo parlato diverse volte di questa band che è davvero molto molto amata dai big della storia della musica internazionale. Parlo di storici musicali, no? Come Led Zeppelin o i cantanti o il cantante dei Black Sabbath. Mi piacciono i Black Keys, ognuno è libero di ascoltare la musica che piace, no? E quindi ascoltiamo questa nuova canzone, si intitola Dead and Gone. Chiudono questa puntata di Rock Revolution con Dead and Gone, successo di quest'estate. Sicuramente lo ascolterete, lo riascolterete tutta l'estate in spiaggia, magari con qualche bellettino in riva al mare. Con questa canzone noi vi salutiamo. Saluto Simone Brancato. Ciao Simone, appuntamento la prossima settimana. Ciao tutti voi a venerdì prossimo. Tra l'altro, poi prossima settimana avremo un artista palermitano che sta avendo un grandissimo successo in giro per l'Italia, impegnato in un tour promozionale. Avremo Fabio Guglielmino e poi tante altre band da intervistare, chiaramente con varie città d'Italia. Quindi appuntamento la prossima settimana con Rock Revolution. Ricordo, il venerdì dalle 21 e poi in replica il sabato dalle 19 su CRM Piredo, la radio che si sente e si vede. Vi ricordo altresì che potete scaricare il nostro podcast dal sito rockrevolution.it e ascoltare Rock Revolution quando vi pare. Grazie a tutti, grazie Ida Parlavecchio e alla nostra redazione, grazie a voi ascoltatori che ci avete seguito fino a quest'ora. Appuntamento la prossima settimana. Da Filippo Brancato è tutto e da tutti noi è tutto. Bye bye! Avete appena ascoltato Rock Revolution su CRM Piredo.